9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon lunedì 7 di novembre, auguri a chi si chiama Ernesto, un'Italia piegata dai danni del maltempo e, come avete sentito dall'anticipazione del GR, che ha ragione però di essere anche molto preoccupata per come oggi andranno i mercati rispetto al nostro spread e al rendimento dei titoli. Di stato tutta la curva in spostamento verso l'alto, siamo al record di spread, stiamo puntando oramai verso quota 500, ci mancano ancora 20 punti base, ma lo strappo è evidente. E questo strappo evidente che cosa testimonia? Testimonia che le vicende dell'ultima settimana, in particolare la vicenda senza precedenti dell'Italia che si è autoaccartocciata ancora una volta di fronte al meccanismo del monitoraggio del Fondo Monetario nei nostri confronti, che è richiesto formalmente dall'Italia, cioè in realtà imposto al G20, che l'Italia nega per ore di aver chiesto, dopodiché accetta e riconosce di aver chiesto, ma dicendo che ha respinto un'offerta unilaterale da parte del Fondo Monetario di Prestito, che non c'è mai stata e che ci vale in pochi secondi il commento sprezzante del direttore generale del Fondo Monetario Lagarde. Ecco, tutto questo ha contribuito ulteriormente a farci fare un altro passo verso la mancanza assoluta di credibilità di questo paese, che pure, ripeto, ha una storia lunga di prestiti e sostegni di emergenza nella sua parabola repubblicana dagli anni 70 in poi, tralasciando ovviamente gli anni immediatamente successivi a quella del secondo conflitto mondiale. E in questa curva avete sentito le ultime uscite dal PDL, compresa Gabriella Carlucci, abbiamo parlato più volte venerdì, giovedì di coloro che hanno firmato la lettera al PDL chiedendo il passo laterale a Berlusconi, avete sentito, immagino, oppure siete a conoscenza del giudizio espresso ieri sera dal ministro degli interni Maroni, che ha detto in utile a accanirsi, la maggioranza non c'è più. Bossi non si era espresso in quel modo, ma insomma il giudizio della Lega è evidente. Sappiamo che Gianni Letta tende a dire al Premier: non ti accanire, fai questo passo. Pisano ieri si è presentato alla convention dei centristi a fianco di Rutelli e di Casini. Tantissimi sono i segni che dovrebbero indurre la logica, diciamo, a prevalere da parte di chi guida il governo, però a maggior ragione si pone un interrogativo che a questo punto riguarda il che fare rispetto a esecutivo di ampie intese. Che cosa vuol dire? Vuol dire tecnici che non hanno consenso tra i partiti, che devono fare il lavoro sporco perché l'opposizione a propria volta è divisa e però non si vuole sporcare le mani, e che qualcuno lo faccia prima che poi tra pochi mesi l'opposizione vince e a quel punto, come dice Di Pietro, evita la macelleria sociale e poi dà una grande inversione di tendenza invece dicendo basta a questa dittatura delle tecnocrazie dei mercati, oppure invece quale altra è l'ipotesi? Di elezioni al buio? Elezioni al buio farebbero schizzare, come è evidente, gli spread ancora più in su, possiamo anche convocarle in un tempo record rispetto alla storia della Repubblica, che non prevede di votare a gennaio, però in quei due mesi senza un governo capace di assicurare misure ai mercati è ovvio che andremo alle stelle. Oppure che cos'altro? Una formula tecnica che però si facesse dettare subito, implorando che prendessero l'aereo immediatamente da Washington, una troica del Fondo Monetario, un'agenda che ci incatenasse a un programma di governo obbligato, senza aspettare che siano le coalizioni contrapposte a farle. Magari a quel punto bisognerebbe fare anche un conto comparato, se non ci convenga chiedere un prestito, un maxi prestito, un enorme prestito da parte del Fondo Monetario. Attualmente i mercati stanno spuntando più o meno il 15% di probabilità di default con i CDS del nostro paese, con una percentuale molto elevata. Bisognerebbe vedere rispetto a quei rischi di default quanto rischiamo in meno contraendo un enorme prestito dal Fondo Monetario, ma che ci obblighi a un programma pluriennale che incateni anche qualunque prossima maggioranza e qualunque governo. Sarebbe una cambiale di assicurazioni, magari ci converrebbe meno della maxi patrimoniale che è dietro l'angolo grazie a questi errori ridicoli di chi prometteva meno tasse negli ultimi 2 anni. anni. Magari ci converrebbe davvero un programma pluriennale contrattato dagli sceriffi del mercato, però gli sceriffi del mercato non piacciono a chi difende giustamente la democrazia e la sovranità popolare, non piacciono a chi giustamente indica nella Grecia l'esempio di paese in cui sono coloro che sono in più basso nella piramide sociale a pagare il prezzo aggiuntivo, come se non bastasse il fatto che nel nostro paese ne pagano già di amaro da 10 anni a questa parte e ulteriormente più amaro negli ultimi 3 anni di crisi. Come si fa però a conciliare programmi di partito che sono lontani anni luce rispetto a ciò che ci chiedono i mercati, suffragio universale, stima verso i tecnici, giudizi verso il passato sprezzanti, quando si è lontani anni luce dal condividere quello che chi giustamente ci porta al disastro purtroppo però non ha fatto neanche lui? È un bel dilemma, e allora tentiamo di affrontare, dando per scontato tutte queste brutte cose di cui abbiamo parlato, dando per scontato che anche in Grecia, come avete visto, l'appello alla sovranità popolare nel referendum ha dovuto retrocedere e lasciare il passo poi a un governo di coalizione, a un governo di transizione verso l'elezione di tipo tecnico. Abbiamo per scontato tutto questo e chiediamoci molto semplicemente, la domanda che faccio ai nostri ospiti ed è la domanda che faccio a voi, interrogandovi però su cosa a questo punto preferite nell'inevitabile ad horas dopo Berlusconi, sia che si induca di fare la carica di balaclava per morire perdendo la maggioranza in Parlamento, sia che più responsabilmente lasci la mano, è questa. Ma non è che per caso, dopo aver passato tanti anni a deprecare la leadership carismatica televisiva di Berlusconi, buona solo a prendere i voti e non a governare, non dobbiamo scoprire, o scopriamo per caso o per necessità, che un po' tutte le leadership del nostro paese politiche sono affette dallo stesso male, che pur di fare battute in televisione sono capaci di allontanare ogni senso di responsabilità e di agenda del paese? Siamo davvero sicuri che, senza voler accomunare nessuno, perché non è questo il senso della domanda, che non si debba per un po', sia pur impossibilmente, staccare la spina invece che inseguire battute una più roboanti dell'altro? Cosa ci dice il caso Renzi? Cosa ci dice il caso Di Pietro in questi anni? Il Movimento 5 Stelle, se non che la tanto deprecato aspetto carismatico personale prevale rispetto a qualunque preventiva logica di consenso rispetto a cosa fare nel paese? Ecco, non è la domanda sull'eccesso di televisione, è sul fatto se veramente i partiti siano definitivamente scomparsi dal nostro orizzonte, non solo l'ex Forza Italia e PDL, ma un po' tutti, anche quelli di lunga tradizione, in un Parlamento del resto in cui la storia più antica era la Lega ad averlo. Può essere che sia un connotato fisiologico, ma se è fisiologico, allora bisognerà capire se l'eccesso in cui siamo vissuti, personale, di mancanza di stile del Presidente del Consiglio, non si riverberà in un eccesso magari meno donnesco rispetto a quello a cui ci ha abituato lui, ma non tanto lontano e diverso dalle caratteristiche di forzatura personale e dalle caratteristiche di assenza di macchine poi di confronto sulle idee. Ecco, questa è la domanda che facciamo agli ospiti che intanto vi presento. Abbiamo con noi il professor Domenico De Masi, che insegna sociologia alla Sapienza. Grazie e buongiorno professor De Masi. Buongiorno a lei. E Mario Rodriguez, amico, persona stimatissima, insegna comunicazione politica all'Università di Padova e amministratore unico di Mario Rodriguez e Associati Comunicazioni, è uno che, diciamo, ha seguito la parabola della comunicazione e anche della comunicazione politica per partiti e leader da decenni, perché aveva e dà una storia anche di impegno civile e di passione politica personale. Buongiorno Mario Rodriguez. Buongiorno a tutti. Allora, posso chiedere al professor De Masi di azzardare una sua ipotesi? Le leadership carismatiche sono oramai tutte uguali in Italia, come al di là di quello che propongono, ma come caratteristiche di consenso ci dobbiamo abituare a che sia così anche nel dopo Berlusconi, oppure no? Ma io credo che noi ci dobbiamo disabituare all'idea che ci voglia un leader carismatico. La società post-industriale, quella in cui siamo entrati praticamente dalla Seconda Guerra Mondiale e che è basata soprattutto sulla produzione di merci intangibili, i servizi, le informazioni, i simboli, i valori, l'estetica, è una società che ha bisogno di grande razionalità nella sua guida e di grande emotività nella realizzazione delle mete. Noi abbiamo avuto quasi l'opposto, cioè forte carisma o pseudocarisma al vertice e bassissima emotività alla base. se si chiede oggi agli italiani di fare grandi sacrifici, non c'è quella spinta. Teniamo conto che nel 1936 Mussolini chiese a tutte le donne italiane la propria fede d'oro, quella che portavano al dito, e tutte le donne italiane dettero questo simbolo massimo, diciamo, della unione familiare e della cattolicità. Perché? Perché c'era grande carisma, c'era grande credibilità. Ora, io credo che la credibilità in una società post-industriale non debba essere affidata né alla capacità di dire barzellette, né alla capacità di essere Superman in amore, né alla capacità di essere spendaccioni, ma debba essere affidata al progettare il futuro. Ecco, questo è il grande balzo che deve fare una società post-industriale. La società industriale aveva come sfida la distribuzione equa del plusvalore. La società post-industriale ha come sfida la progettazione del proprio futuro. Se noi non progettiamo il nostro futuro, altri nel mondo, visto che ormai il mondo globalizzato è una serie di vasi comunicanti, altri nel mondo lo progettano per noi. Quando ad esempio Marchionne dice c'è poco da fare, queste sono le misure, sia pure dolorose, che la Fiat deve prendere, significa che non ha progettato il futuro e che altre case automobilistiche l'hanno progettata per essa. Però quando un paese si sente in crisi, quando un gruppo si sente in crisi, quando un individuo singolo si sente in crisi, come prima cosa smette di progettare il proprio futuro. Questa è una situazione sociologica che si ritrova in tutte le fasi di decrescita di un paese. Noi in questo momento non pensiamo al futuro, non progettiamo il nostro futuro, e sarebbe quasi sconsiderato farlo, apparentemente, con i guai presenti che abbiamo. Quindi occorre, secondo me, una leadership a forte tenuta di razionalità, che sappia proporre la razionalità come elemento decisivo dopo alcuni anni di sbornie emotive da parte del vertice, e che sappia aiutarci a progettare un futuro corale al quale crediamo e per il quale siamo disposti a fare sacrifici. Sulla leadership razionale Domenico De Masi, Oscar Giannino ci metterebbe la firma come modello, che non significa credere che dai tempi di Max Weber a oggi non sia cambiato nulla, perché è cambiato il modello di produzione, è cambiato il rendimento del capitale finanziario rispetto a quello reale, dobbiamo riequilibrare proprio questa componente qua e non ci siamo riusciti da 4 anni a questa parte, sono cambiati i mezzi di comunicazione, è arrivata la televisione ed è stata superata da internet, quindi il modello, diciamo così, di leadership razionale, che è un po' quello di politica als Beruf, cui ci ha abituato il modello di responsabilità weberiano, travolto poi dalla Repubblica di Weimar, da tutto quello che avvenne negli anni successivi, è un modello la cui difficoltà sta proprio nel fatto di come lo si coniuga con modelli di consenso che sono diventati personalizzati, caldi nelle parole d'ordine, immediati nel rimbalzo dei mezzi di comunicazione. Allora, Mario Rodriguez, come hai vissuto anche dal punto di vista della consulenza professionale a pezzi di sinistra proprio negli ultimi decenni, oramai senza farsi troppo vecchi, ma è così, il cambio di tutte queste ondate di comunicazione e di meccanismo personale rispetto a come funzionava la sinistra, il centralismo democratico, gli organi chiusi in cui c'era la linea, dopo, è tutto cambiato. E come si fa adesso una leadership razionale quando si deve ereditare o prendere in mano un paese che ha questo genere di guai e che chiede alla gente probabilmente di doversi sobbarcare a botte pesanti rispetto a tutte le chiacchiere che sono state raccontate? Beh, il punto principale però che io vorrei mettere in discussione è che stiamo parlando più della mediatizzazione, della televisivizzazione, della poppizzazione delle leadership che non della personalizzazione, perché proprio l'esempio che faceva il professor De Masi sugli anni 30, su Mussolini e le fedi delle donne italiane, ci dice che la personalizzazione è un fenomeno che attraversa il leader carismatico, attraversa fortemente tutto il Novecento. Noi ne abbiamo una variante molto caratterizzata dal predominio della televisione, soprattutto è stata la televisione negli anni 80 la svolta che non abbiamo saputo metabolizzare. Io sono appunto convinto che quando la sinistra attribuisce al potere della televisione la capacità di Berlusconi di governare lo strumento televisivo, la sua grande forza, per me fa un errore, non capisce le ragioni vere, sociali, profonde, i micro fondamenti del macro fenomeno Berlusconi, e questo porta a pensare che il berlusconismo addirittura sia un fenomeno, un fenomeno tutto legato alla mediatizzazione della comunicazione politica e non all'esperienza che le persone vivono. Proprio il fatto che ci sia bisogno di raccontare un futuro, di una narrazione che sia motivante nei comportamenti, ci dice però che la dimensione da governare non è soltanto quella della ragionevolezza, della razionalità, ma di una capacità anche di generare sentimenti, sensazioni che appunto diano una chiave interpretativa e una motivazione. Il limite delle forze politiche, delle culture politiche forti è stato questo, il passaggio, credo che il professor De Masi mi dia ragione, della secolarizzazione, della prosaicizzazione degli ideali politici, la fine dei partiti politici come chiese laiche. Di questo fenomeno, di cui la televisione è stata grande parte, soprattutto nella parte iniziale, diciamo, Berlusconi è stato quello che ne ha saputo meglio approfittare, meglio utilizzare in una congiuntura italiana, ma era un fenomeno che la società italiana avrebbe dovuto affrontare. Le forze politiche attuali in Italia non hanno avuto la capacità di adattarsi a questa nuova situazione, hanno lasciato spazi, questi spazi sono stati presi prepotentemente da una logica mediatica, dalla logica televisiva, dalla spettacolarizzazione, dalla trasformazione della politica in intrattenimento, e hanno deformato il campo, come direbbe un grande sociologo che non c'è più, che è Pierre Bourdieu, il campo mediatico ha deformato il campo politico, e quindi è venuta fuori una situazione per cui, secondo me, ma questo lo dico con grande umiltà, il modo in cui la politica è in TV è parte del male e non è parte della cura. Io sono abbastanza convinto di questo, che una politica soggetta a cercare per forza una novità ogni tre giorni, rispondere ad una domanda incalzante ogni tre giorni, si espone ad una asmaticità, ad un respiro corto che non è il respiro lungo della costruzione di progetti. Questo a me sembra il punto più delicato, cioè una carenza proprio di inquadramento politico. Se si continua a pensare che Berlusconi e la sua forza in Italia sia stato un fenomeno del tutto emotivo, di plastica, come si è detto certe volte, non si capiscono le ragioni vere e non si riesce a dare una proposta che convinca anche una parte di quell'elettorato. Si vive in un bipolarismo conflittuale, non si considera la società sistema, non si considera non si vive la società come un sistema, si pensa che si possa vivere in una situazione che era quella rappresentata dalle culture politiche del Novecento, in cui qualcuno vince e qualcuno perde, qualcuno domina e qualcuno subisce, e non come un sistema di interrelazione. Allora, tra i nostri ascoltatori la fascia dagli SMS copre le opinioni più varie e diverse, perché c'è chi dice che per esempio il caso Renzi dimostra l'opposto di quello che stiamo dicendo, cioè l'opposto del fatto che non ci sia più nessuno in grado di avere degli anticorpi alla mediatizzazione televisiva delle leadership, perché il nostro ascoltatore ci manda un SMS che dice che il PD sta arginando il fenomeno, che evidentemente dal suo punto di vista deve essere negativo il fenomeno Renzi, perché il PD resta un grande partito popolare, cosa che gli altri partiti non sono mai stati. C'è chi dice che c'è un nuovo paradigma che sta arrivando di leadership mediatico, perché la rete, e quindi cose come 5 Stelle e così via, Grillo ma non solo, e la protesta che nasce al di fuori dei vecchi movimenti organizzati nelle piazze, sarebbe l'alba di una democrazia reale, diretta e partecipata. Io devo dire la verità, credo un po' poco a questa maniera totalmente non filtrata di idealizzare la rete. La rete è anche una maniera per degli abili manipolatori di farvi credere a teorie delle cospirazioni varie e diverse. Io credo nella necessità di approfondire e nel pluralismo del confronto, in cui ci siano nomi e cognomi e facce. Però questa è la mia modesta opinione di vecchio giornalista. Un altro ascoltatore ci dice: guarda, io sono un operaio, vorrei dire che ora semplicemente che la politica risolva i problemi senza andare al voto, perché altrimenti tutti a casa d'accordo, ma non è detto che risolviamo il problema rieleggendo altri 1000 parlamentari. Un altro, più politico per così dire, ci dice l'altro ascoltatore: ci vorrebbe molti nell'immediato e un casino nel prosieguo. Figura perfetta quanto detto ora dal professore Masi, perché non ha mai ecceduto né nei toni, né nel dissenso, né quando anni fa era ancora con Berlusconi. C'è anche chi ci dice però: guardate, attenti a non sottovalutare Berlusconi, perché a Cannes le cose non sono andate così come state dicendo voi. E guardate che nei sondaggi, io non so nelle ultime settimane, ma fino a che i sondaggi erano lunedì scorso testimoniavano un Forza Italia, un PDL che a mio giudizio era ancora bello alto, quindi non so che tipi di sorprese potremmo avere se andassimo al voto presto. Un'occhiata ancora, anzi no, andiamo in pubblicità, poi ripartiamo dai giornali di oggi Franco Tedeschi, che anche quelli è bene tenerli sott'occhio. Solo per dirvi che su alcuni giornali franco-tedeschi c'è qualche cosa comunque deve essere letto, perché la Francia è stata costretta questo fine settimana a propria volta a varare in tutta fretta un nuovo piano di rientro della finanza pubblica. Pensate che in ogni caso, e con giudizi di giornali come Le Monde e Figaro, che dicono che comunque non è credibile, l'azzeramento del deficit francese non è previsto prima del 2016, per capirci, e c'è l'anticipo dell'entrata in vigore dell'età di pensione a 62 anni, capite? Soli a 62 anni, e anche in questo caso la protesta si tratterebbe di farlo nel 2016 o nel 2017. Questo per dirvi come poi le condizioni dei grandi paesi europei sono totalmente disomogenee. Pensate se noi ci potessimo permettere, rispetto a un deficit loro attuale che è più vicino all'8 che al 7%, un azzeramento del deficit al 2016. Eppure così è, naturalmente. Dall'altra parte c'è Wolfgang Münchau sul Financial Times, che continua a esprimere molto scetticismo su questo doppio meccanismo FSF e IMF del Fondo Monetario, e ripeto, forse qualcuno in Italia dovrebbe rapidamente fare un conto sul fatto che se non convenga a noi di rivolgerci al Fondo Monetario Internazionale per rendere a quel punto le leadership negli anni a venire italiane più razionali. Ultimo flash invece, Holger Stelzner della Frankfurter Allgemeine, lo citiamo spesso perché è il capo nell'ufficio centrale dei direttori dei diversi servizi del Frankfurter Allgemeine, è il capo di quello economico. Oggi scrive un pezzo che vale la pena di essere letto, perché dice: state attenti perché lo scopo reale di molto di coloro che propongono che il Fondo Europeo Salva Stati e Salva Banche diventi sempre più simile al Fondo Monetario è quello di mettere le mani sul nostro oro, sulle riserve auree tedesche. E quindi cito questo perché, come vedete, le diffidenze a meccanismi di convergenza vere europee rispetto alle impostazioni nazionali restano molto forti, e questo è un conto che chiunque si approssimi al governo italiano dovrà fare bene, perché come si vede dall'aver rinviato colpevolmente la soluzione del problema greco, che ci poteva costare 30 miliardi di euro, non 300 miliardi, il rischio che salti l'Europa con l'Italia che diventa il vero banco di prova, è sicuramente un errore dovuto a impostazioni molto ancora comprensibilmente nazionali, però troppo nazionali per voler far convivere anche un'idea di Europa. Sentiamo rapidamente un po' come la pensano i nostri ascoltatori sugli interrogativi sulle leadership razionali e mediatizzazione televisiva anche a sinistra, nel centro e un'ipotetica destra post berlusconiana, di qualunque tipo essa sia. Sentiamo come la pensano rapidamente i nostri ascoltatori. Cominciamo con Caterina, che chiama dalla provincia di Como. Prego, Caterina. Buongiorno, io vorrei che si smettesse di pensare che ci vuole un leader. Noi non abbiamo bisogno di leader, perché il leader presume anche una serie di pecore che lo seguano, come è successo con Berlusconi. Io penso che abbiamo bisogno di veri politici, veri governanti, non di leader. Il leader non ci interessa. non ricordo più chi ha detto la frase, povero quella nazione che ha bisogno di un leader. No, di eroi, era veramente... No, lo so, so che è stato detto e io sono d'accordissimo con questo. Perché si cerca il leader non ho capito. Va bene Caterina, e il problema è che i governanti per governare hanno bisogno di consenso, si va con i sondaggi in tempi rapidi e quindi è un po' questa la questione. I governanti non leader mediatici, come si fa ad averli in un modello di consenso che ai tempi collassati dell'ipermediatizzazione? Giorgio da Vicenza, che pensa Giorgio? Penso che innanzitutto buongiorno, che Berlusconi deve proprio fare un passo indietro, perché basterebbe andare a lavorare come io faccio col mio mestiere in giro per l'Europa, vedere che veramente siamo messi molto male a livello di credibilità, ma non parlando con il popolo, parlando con imprenditori, gente che lavora insieme all'Italia. Noi oggi come oggi non abbiamo più credibilità e mi dispiace che una persona lungimirante come Berlusconi, perché io sono un elettore di destra, non l'abbia capito e si arrocca su queste posizioni che non hanno in questo momento nessun senso, perché poi il buon senso sta sempre a metà strada, no? Sì, Giorgio, però evidentemente ci sono ragioni profonde, perché non ha mai pensato evidentemente a dare un seguito, tantomeno una leadership vera al movimento politico che ha creato, che identifica con se stesso, quindi il rischio di esplosione e di implosione è molto forte da questa, come conseguenza. Donato da Matera, prego Donato. Innanzitutto complimenti per il tono con il quale affrontate questo dibattito, piacevole seguirti. Una cosa a Giorgio, è vero il tema della mancanza di credibilità, ma non lo scopriamo. Aspetta Donato, noi proviamo a richiamarti al volo perché la linea non fa sentire quello che dici. Intanto passiamo a Marco da Bologna e riproviamo per vedere la linea migliore. Marco, prego. Buongiorno Giannino. Niente, io pensavo solo a questo e in parte l'ha detto la prima ascoltatrice. Io credo che ognuno in questo tempo si deve prendere di più la propria responsabilità, nel senso che un uomo da solo non ce la fa in questo senso. Il benessere degli ultimi anni ci ha portato a un fortissimo individualismo e secondo me è venuto il tempo, come ripeto, di prendersi di più ognuno la propria responsabilità nel quotidiano anche. Perfetto, un appello alle responsabilità condivise. Donato da Matera, riproviamo, vediamo la qualità della linea, prego. Ecco qui, allora salto i complimenti, altrimenti perdo troppo tempo. Volevo dire solamente a Giorgio che il problema della credibilità italiana non è una cosa che nasce con Berlusconi, comunque probabilmente si è acuita in questo periodo. Comunque vorrevo intervenire riguardo proprio al tema più generale, la personalizzazione delle leadership politiche, soprattutto in Italia. Mi ha ricordato questo dibattito quanto diceva e scriveva Montanelli, e lo ha fatto per tanto tempo, perché lui diceva che l'Italia è sempre disposta ad acclamare un tenore, e quindi così è accaduto con Mussolini, probabilmente perché gli italiani sono in fondo, sempre lui diceva, lo sto citando, il popolo più antidemocratico della terra, perché la democrazia è un canto corale, mentre gli italiani prediligono l'assolo alla romanza. Questo in sintesi. In effetti, e qui ci aggiungo il mio pensiero, probabilmente sbaglierò, ma le varie leadership in ascesa, quelle di Nichi Vendola per esempio, per vedere a sinistra, lo stesso Renzi, così come Antonio Di Pietro con l'Italia dei Valori e così come anche Beppe Grillo, non fanno altro che rappresentare questo modello tutto italiano dell'applauso, del capopopolo e dell'eccessiva poi personalizzazione della quale anche la signora Caterina che ha chiamato poco fa si lamentava. Dice di voler fare a meno. Perfetto Donato. Riflessione mia. Oggi Corriere della Sera, prendete la pagina dell'opinione, pagina 34, in alto è la girata di Piero Stellino, il cui titolo dice: il Cavaliere se ne va bene e dopo purché non tornino i grandi Gattopardi. Piero Stellino è un grande liberale, è un amico per me personale, ha passato l'ultimo periodo del declino evidente, intangibile, innegabile, in cui secondo me chiunque abbia le idee di persona, individuo, mercato non poteva che dirgli levati dai piedi. Io così ho vissuto le mie convinzioni e così ho tentato di declinarle, l'ha visto con un malessere crescente, perché dice adesso chi arriva però sarà peggio dal nostro punto di vista. Sotto Walter Veltroni, sto parlando di pagina 34 del Corriere della Sera, io so che questa Italia si merita di più. perché dico vale la pena di leggere? Perché da una parte c'è una delusione evidente di chi è liberale e sperava in Berlusconi, dall'altra sotto un leader della sinistra che ha dato una grande orma di sé nel fatto che poi il PD di Veltroni doveva essere completamente diverso a quello che veniva rimproverato ai dalemiani, ai tradizionalisti, fare la semplice somma del ex PC PDS e ex popolari della Margherita, un vero mix di culture, molto più dal basso che guidato dall'alto, che rompe con la sinistra antagonista e che però sceglie poi di regalare o comunque di agevolare nel quorum di Pietro da questo punto di vista. Bene, oggi vi invito a leggere l'articolo di Veltroni, perché Veltroni cosa fa? Fa una proposta rispetto alle preoccupazioni di chi come Ostellino è liberale, non può più difendere Berlusconi e dice attenzione ma vengono i grandi gattopardi. Mi ha molto colpito, leggetela, perché non sta a me giudicarla, è un elenco fatto da, come se fosse un parlamentare qualunque del centro-sinistra, dell'Italia come dai tempi della mafia, delle bombe eccetera eccetera, come un'Italia ostaggio di poteri occulti, pezzi di Stato che mai manifesti, sono in realtà i veri registi della storia italiana, riproponendo quindi un classico della contrapposizione tra destra e sinistra italiana, secondo la quale la sinistra non ha mai potuto governare perché c'erano poteri impropri, il mondo spaccato in due, la P2, Gladio, Andreotti e la mafia, eccetera eccetera. Ecco, questa riproposizione che in definitiva dice, rispetto ai problemi di oggi, dobbiamo scegliere di chiedere il prestito al Fondo Monetario oppure la maxi patrimoniale, dobbiamo scegliere per esempio una strada come quella indicata da Andrea Monorchio oggi nel supplemento economico di Repubblica, leggetela, è una via intermedia tra la grande patrimoniale in liquido, che secondo me è iperrecessiva agli italiani, e chiede invece agli italiani liberi da un mutuo di accendere un mutuo pari al 10% aggiuntivo sul valore della propria casa per comprare titoli di Stato facendone abbatterne il rendimento. È una patrimoniale anche quella, sia pure fatta in forma impropria, però forse è meglio parlare di queste cose qua che riproporre la vecchia idea. Lo dico non perché io dica Veltroni delude, personalmente reputo che né Ostellino né Veltroni, se non legge quei due pezzi, trova le risposte ai problemi di oggi, e quindi eccoci riconsegnati con l'ultimo giro che faremo dopo l'informazione sulla circolazione stradale. Siamo sicuri che ci sia davvero una risposta a una leadership diversa da quella carismatica, ipermediatizzata, però incapace di governare, di Berlusconi? Nel frattempo lo spread è arrivato a quota 489 rotti, quota 490, il decennale paga il 6,5%, vi ricordo che a quota 7% sulla piazza finanziaria di Londra non si accettano più i BTP come collaterali di operazioni di pagamento per titoli finanziari. La BCE continuerebbe, ma intanto un pezzo fondamentale di mercato, ricordo a tutti che anche Borsa Italiana fa parte del sistema integrato con Londra, non li accetterebbe, ed ecco quello che costa al paese il problema di cui stiamo parlando. Nicola Piepoli, presidente dell'Istituto Piepoli, nei sondaggi di questi ultimi mesi, man mano che la crisi si approfondiva e se nei sondaggi se ne vedevano i segni, nei consensi alle coalizioni e alle forze politiche, che tipo di leadership sembra emergere? Confermata quella carismatica personale ipermediatizzata oppure di tipo diverso, un ritorno al passato o di tipo nuovo? Lei che dice, Piepoli? Non c'è nessuna leadership che esce fuori dai sondaggi perché la gente non ha idee. Quindi la leadership nasce dai politologi, da lei, da chi a un certo momento è spin doctor di questo o di quel professionista della politica, non nasce certo dall'opinione pubblica. L'opinione pubblica è quello che vuole, è solo e soltanto un governo che abbia una sua capacità di mandare avanti il paese in termini di PIL, cioè di creare ricchezza per il futuro. Risposta secca, e quindi la responsabilità dei Mario Rodriguez, cioè degli spin doctor, è interpretare da un punto di vista oggi di un'opposizione, di un dopo Berlusconi, come si fa a fare questa roba, ma come si fa a farla dicendo un linguaggio dell'amara verità che è molto diverso da quello ripetuto fino a poco prima, Rodriguez? Ma secondo me bisogna aver fiducia nelle persone, o è una scelta o è una condanna. Se si parte dall'idea che le persone sono incapaci di ragionare, di provare dei sentimenti positivi che motivino il loro comportamento per raggiungere uno scopo, io credo che non solo la comunicazione non serva, ma non serva la politica. Quindi il problema è riuscire a governare non tanto l'appello alla razionalità, contrapposta alla generazione di sentimenti positivi, di sensazioni, di feeling, come dice Damasio, ma appunto la capacità di inserire in una cornice convincente le cose che stiamo facendo, che stiamo vivendo e le cose che dobbiamo fare perché questo vivere sia un vivere che ci soddisfi meglio. Io non credo sinceramente che il popolo sia bove, non ho fatto una scelta nella mia vita che era da questa parte e ci resto felice e fedele, voglio dire, non ci sarebbe possibilità di relazionarsi agli altri se noi pensiamo che gli altri non siano capaci di formulare una loro visione della realtà. L'elettore ragiona anche quando non ci dà ragione, quando non è dalla nostra parte. L'importante è che noi capiamo le sue buone ragioni per pensarla come la pensa. Perfetto, allora la fermo perché a questo punto a De Masi chiedo una frase shock in 30 secondi. C'è tutto questo nell'orizzonte che vede lei? Ma rispondo con due frasi di Georges Braque e di Juan Gris, che battagliavano tra di loro. Georges Braque diceva: j'aime la règle qui corrige l'émotion. Ah. Io amo la regola che corregge l'emozione. E Juan Gris diceva: j'aime l'émotion qui corrige la règle. Io amo l'emozione che corregge la regola. E su questa indiade un po', devo dire, molto molto diplomatica, un po' furbona del professor De Masi, chiudiamo. Non abbiamo trovato la risposta. Vediamo i record di oggi. Intanto Linea Giornale Radio, appuntamento a domani.